Siamo in collegamento con Stefano Marcelli, segretario di Informazione Senza Frontiere. Negli USA il Patriot Act, in Italia la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, nel Regno Unito le critiche degli alti ufficiali militari ai giornalisti, seppure embedded, che sono ritenuti addirittura responsabili delle perdite subite dal corpo Black Watch per la eccessiva esposizione mediatica. Insomma, i reporter di guerra, oltre alle difficoltà sul campo, devono guardarsi dalla coalizione dei volenterosi? Certamente, l'abbiamo visto e purtroppo l'abbiamo contato in decine di colleghi morti, soprattutto per fuoco amico a Baghdad. Il problema è che sempre di più le guerre si fanno sul fronte mediatico. Il problema, al di là delle strategie militari, è quello di condizionare le opinioni pubbliche dei paesi. Bin Laden e quegli oscuri guerriglieri che sgozzano le persone tentano di condizionare l'opinione pubblica araba, la coalizione anglo-americana tenta di condizionare l'opinione pubblica occidentale. I giornalisti, quelli che provano a fare il loro mestiere, stanno nel mezzo e sono obiettivi per tutti e due. Sono obiettivi i giornalisti, ma soprattutto la nostra libertà di cittadini del mondo di sapere cosa succede davvero e di crearci liberamente la nostra opinione e quindi di poter esercitare concretamente la democrazia. A Firenze si è appena svolto un workshop internazionale il 3-4 dicembre scorso, dove è stata approvata la Carta per il Libero Giornalismo di Firenze. La Federazione Mondiale dei Giornalisti, quella italiana, colleghi che vanno dalle testate italiane e israeliane fino ad Al Jazeera, si sono ritrovati su un appello all'Unione Europea e all'ONU perché faccia rispettare le norme attuali a tutela dell'integrità fisica e del lavoro dei giornalisti e ne promulghi di nuove. Il principio è sempre quello, non si tratta di difendere una categoria o una corporazione di professionisti, ma si tratta nella nostra società di rivendicare il diritto concreto a sapere cosa succede e quindi a poter esercitare il diritto democratico. Le associazioni internazionali dei giornalisti sono mobilitate su questo fronte, ma credo e crediamo tutti noi degli organismi internazionali dei giornalisti che siano i cittadini prima di tutto a prendere coscienza e a mobilitarsi per rivendicare questo diritto che prima di tutto è loro. Se non esistono testimoni, nelle guerre veramente può succedere di tutto e anche nel futuro dell'umanità purtroppo. Leopoldo Calabria, amisnet.org.